Uno scopre, scorrendo i titoli dei giornali, che la FAES, Associazione Pedagogica Famiglia e Scuola, che fa capo all'Opus Dei, ha deciso di conservare nei suoi istituti la tradizionale divisione tra sezioni maschili e femminili, ubicate ben distanti all'interno dell'edificio scolastico, possibilmente collocate in sedi diverse. E si dice, che altro possiamo aspettarci dall'Opus Dei? Poi legge l'articolo e scopre che quei bravi pedagoghi non hanno preso la loro decisione per i motivi che lui aveva rozzamente supposto. Non ci pensano neanche coloro a rinnovare la tradizione sessuofobica che nelle epoche oscure caratterizzava la scuola cattolica, ma figuriamoci. Tanto per cominciare, si fa così anche a Berlino, dove su ispirazione di tale Ingrid Stammer, che Dio la perdona, la caduta del muro ha prodotto tra gli altri benefici effetti anche il ritorno delle classi maschili e femminili. Poi in Gran Bretagna l'associazione dei presidi sostiene da tempo a spada tratta le classi separate e molte scuole si sono già adeguate ai suoi suggerimenti. E negli Stati Uniti l'associazione Donne Universitarie, che nel 92 si era pronunciata contro la separazione, è tornata da poco sulle sue decisioni, una vera e propria doccia fredda per il partito della scuola mista tanto diffuso in quell'infelice paese. Ora, negli Stati Uniti, a quanto afferma l'articolo da cui ho tratto queste brevi informazioni, che è un articolo della Repubblica del 20 marzo, la motivazione che spinge a separare studenti e studentesse sembra sia il desiderio di impedire che le ragazzine siano influenzate dall'esempio negativo dei maschi. Ma in Gran Bretagna, in Germania e soprattutto negli istituti del FAES le motivazioni sono molto più serie, sono scientifiche. Le ultime scoperte della neuroscienza, si legge, stanno dimostrando che nel periodo dagli 0 ai 6 anni il cervello del bambino possiede la capacità di apprendere, di elaborare e di interiorizzare gli stimoli intellettivi che non si ripete più nelle età successive. Trova così un appoggio scientifico ulteriore il metodo dell'insegnamento tempestivo che il FAES sta sperimentando da 2 anni nella scuola materna Aurora a Milano e nella scuola dei Fiori a Bari. In pratica, i bambini vengono bombardati di stimoli fin dal primo anno d'asilo. Imparano subito a leggere, a scrivere, apprendono la seconda lingua, usano il computer per esercizi di logica e matematica, passeggiano per allenarsi a osservare e ricordare, si esercitano nella musica e nello sport. Sì, d'accordo, direte voi. Ma questo cosa c'entra con la separazione dei sessi a scuola? Beh, è facile, basta chiederlo a Franco Calzona, direttore dell'Istituto di Studi Pedagogici dello stesso FAES. Le ragazze, ci spiega costui, sono più intuitive e più rapide, i ragazzi più riflessivi. Questo determina dei tempi diversi di apprendimento e qualche attrito, meglio lasciarlo imparare in aule distanti, meglio lasciare loro la possibilità di seguire il proprio percorso, senza interferenze. Ciò evita anche il verificarsi di quegli stati di soggezione e timore che spesso insorgono tra i due sessi durante le lezioni. Sarà. Io, per quello che vale il mio esempio, ho frequentato le classi miste fin dalla prima media e all'epoca ce n'erano proprio poche, ma i miei genitori, che con l'Opus Dei non avevano molto a che fare, porca loca, erano riusciti a imbroccarne una. E forse qualche senso di soggezione l'avrò anche provato, Ma continuo a ricordare quelle esperienze come molto formative. Come insegnante ho avuto a che fare per quasi 25 anni con classi miste, sia pure a prevalenza femminile, come succede spesso al liceo classico, e sì, posso testimoniare che qualche diversità nei tempi di apprendimento, o meglio nel modo di rapportarsi con la scuola, in effetti c'è. Ma ho sempre pensato che il motivo per cui le ragazze di solito sono più brave dipendesse dal fatto che poverette fossero molto più integrate, che la pressione familiare e sociale cui erano sottoposte dalla nascita le spingesse a meglio accettare a collo più o meno torto le imposizioni, comprese quelle scolastiche, a organizzare la loro eventuale opposizione in modi più sfumati, ad adeguarsi alle richieste dell'istituzione a scanso di grossi guai, per cui se gli dicevano di studiare, studiavano, e chi studia non c'è santi, a scuola riesce meglio. Ma non ho mai considerato questa differenza un portato genetico irrevocabile, visto che le fanciulline, quando, grazie anche alla frequenza dei loro scioperati compagni, da quelle remore riuscivano a liberarsi, si dimostravano perfettamente capaci di combinarne anche loro di cotte e di crude. E avrei supposto anche che proprio questo fosse l'esempio negativo che tanto preoccupa l'Associazione Americana delle Donne Universitarie. Intendiamoci. Queste sono mie modeste esperienze personali che nulla possono togliere dalle conclusioni degli esperti dell'Opus Dei, per non dire delle ultime scoperte delle neuroscienze. Può darsi benissimo che le signorine siano più intuitive e i ragazzotti più riflessivi. Ma per quanto mi sforzi non riesco a vedere perché una distinzione del genere debba comportare una separazione a livello di insegnamento. Il bello dell'esperienza scolastica, in fondo, la sua intima positività al di là di tutte le orribili negatività che caratterizzano la scuola istituzione, è proprio quella sua polivocità, quella possibilità di confronto tra persone diverse. A scuola, io ho sempre creduto, si va più per imparare dai propri compagni che dagli insegnanti, e il rapporto in ogni caso è sempre a tre. E chi si affida soprattutto all'intuizione non potrà che trarre giovamento da chi è più abituato a riflettere, proprio come chi ha alle spalle un'esperienza formativa di tipo maschile non potrà che giovarsi dallo scoprire che le sue compagne hanno vissuto un'esperienza diversa, e viceversa, no? E poi, insomma, i pedagogisti dell'Opus Dei dovrebbero conoscere il valore della coerenza. Se nella pratica scolastica bisogna tener conto delle differenze, perché limitarsi a quelle di sesso? Sappiamo tutte che gli intelligenti apprendono in modo diverso dagli stupidi, i bianchi dai neri, i valdostani dai siciliani, i ricchi dai poveri. E vogliamo fare delle scuole diverse per gli stupidi e per gli intelligenti, per i bianchi e per i neri, per i ricchi e per i poveri? Beh, noi forse no, ma loro, non loro nel senso dell'Opus Dei, loro in generale, loro sicuramente sì.